Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Perché tornare? Perché credo che in Italia abbiamo da sempre dei talenti all'interno di quelli che sono la nostra popolazione, che sono un'eccellenza in Europa ma anche nel mondo. E quindi la mia volontà sarebbe quella di mettere a frutto la mia esperienza, quella che ho maturato in questi 5 anni in Olanda, per comunque anche promuovere queste persone, visto che dirigo un progetto editoriale online che si occupa appunto di promuovere artisti di qualsiasi genere, dalla fotografia, arti figurative e musicali. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Anche questa settimana iniettiamo ottimismo in apertura di programma con la storia di un altro aspirante controesodato. Attilio Brancaccio, 36 anni da 5 in Olanda come fotografo e art director. Attilio pensa a un rientro in Umbria grazie al progetto Brain Back Umbria, che punta ad aiutare giovani imprenditori ora all'estero a tornare in regione. La frase della settimana è copyright dell'ambasciatore americano in Italia David Thorne. Voi giovani siete il futuro dell'Italia, voi potete prendere in mano il vostro paese e agire per le riforme e il cambiamento. Thorne ha aggiunto: so che ci sono problemi e sfide, problemi con la meritocrazia, ma spero che molti di voi daranno un contributo positivo al paese. Sarà anche grazie a un controesodo dei nostri migliori talenti all'estero che riusciremo a far ripartire l'Italia? La burocrazia all'estero è più facile e ti permette di iniziare, che di solito è la parte più difficile. Poi, una volta che la struttura è creata, rientrare in Italia non è così difficile, o quantomeno puoi provarci. Paola Costa, 36 anni, è imprenditrice e fondatrice della scuola per l'insegnamento della lingua cinese orientalmente a Barcellona. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. $42.000 giovani italiani iscritti negli atenei di altre nazioni, 300.000 laureati residenti oltre Alpe, 30.000 under 40 espatriati ogni anno. Questi i numeri del patrimonio di talenti perso dal sistema Italia negli ultimi anni, secondo quanto emerso nel corso di una conferenza organizzata dalla School of Management del Politecnico di Milano e da Procter & Gamble. Per Gianluca Spina, presidente del MIP, i paesi più forti sono quelli che presentano politiche attive in grado di attrarre e mantenere il maggior numero di talenti. L'Italia importa manodopera non qualificata ed esporta i suoi migliori cervelli, laureati e ricercatori. Sul lungo termine questo riduce il valore del capitale umano del nostro paese, impoverendo le imprese e la società. Sempre più giovani diplomati francesi desiderano lasciare il loro paese per andare a vivere, studiare e lavorare all'estero. Erano il 13% l'anno scorso, sono il 27% quest'anno, secondo uno studio IFOP. Intanto però proprio il governo transalpino ha deciso di migliorare l'accoglienza degli studenti stranieri sul suo territorio con un permesso di soggiorno pluriannuale e con uno sportello unico per le pratiche amministrative. Per contare nel mondo di domani, la Francia deve saper attrarre i migliori studenti, ricercatori e scienziati. Ne va della nostra competitività, ha dichiarato il ministro dell'interno Manuel Valls. E la Germania continua ad essere la principale calamita di talenti qualificati dal resto di un continente in crisi. Secondo il sito The Local, 306.000 cittadini europei si sono trasferiti in terra tedesca nella prima metà del 2012, il 24% in più rispetto all'anno precedente. Secondo Steffen Krönert dell'Istituto per la Popolazione e lo Sviluppo, questa immigrazione è positiva. C'è bisogno di immigrati giovani e qualificati per sopperire a una popolazione in rapido invecchiamento. I settori che offrono maggiori opportunità sono industria, commercio al dettaglio, sanità e settore pubblico. Secondo Deutsche Welle, il governo starebbe pensando a un vero e proprio pacchetto di benvenuto per i nuovi immigrati. Tuttavia, secondo l'Ocse, in termini di lavoratori qualificati, la Germania non ne attrae quanto Australia, Danimarca o Canada. L'Italia è il paese tra i maggiori d'Europa dove la disoccupazione nell'ultimo trimestre 2012 ha subito l'accelerazione più marcata rispetto al trimestre precedente, lo afferma la Commissione europea. Aggiunge il Ministero del Lavoro, nel 2012 i licenziamenti hanno superato 1 milione più 13,9%, i giovani sono i più penalizzati nelle nuove assunzioni con cali di oltre il 10% e per paradosso crescono i nuovi rapporti di lavoro per gli over 55. Anche i giovani manager perdono il lavoro in tempo di crisi, interrompendo così il processo di ricambio generazionale. Tra i nuovi disoccupati nel 2012, oltre un manager su 4 era under 40. E le piccole e medie imprese non sembrano sensibili all'assunzione di giovani. Secondo il Censis, solo una PMI su 3 punta sull'assunzione di under 30, mentre il 15% preferisce addirittura assumere ultra trentenni. Sotto accusa, secondo la ricerca, i percorsi scolastici. Gli imprenditori denunciano il forte scollamento tra scuola e imprese. Giovani che tengono alto il nome dell'Italia nel mondo. Marina Faiella, 28 anni, ricercatrice napoletana, lavoro all'Arizona State University, ha ricevuto una delle 15 borse di studio attribuite da L'Oreal UNESCO a ricercatrici under 35. Non è in fuga dall'Italia e spera di rientrare. L'ha intervistata Laura Bettini. Il momento è assolutamente una scelta, perché penso che sia anzi una cosa da consigliare a tutti, perché apre proprio la mente. Quindi per ora c'è anche un possibile progetto di rientro? Certo, nel senso che si spera nelle migliori condizioni possibili per tornare, naturalmente. È in corso oggi e domani a Roma la quinta edizione della conferenza Talenti Italiani all'Estero, gruppo promosso da Aspen Institute Italia. Nella due giorni i giovani professionisti espatriati si confronteranno su numerosi temi. Simona Miglio della London School of Economics, già protagonista di Giovani Talenti, ci spiega quali sono tematiche e scopo del gruppo. Noi in linea di massima cerchiamo di analizzare problemi che riguardano il sistema italiano, fondamentalmente incentrati su formazione, ricerca, innovazione e mercato del lavoro, e cerchiamo di dare, essendo appunto tutti italiani all'estero, un contributo che si basa sia sulle esperienze nostre personali fatte all'estero, sia nel cercare di portare nel sistema italiano quello che possono essere le best practices. Quindi state cominciando a vedere dei frutti? Sì. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta a Barcellona, città molto italiana, benché capitale catalana. Sono ormai decine di migliaia i connazionali che vi risiedono, nonostante la crisi abbia pesantemente colpito anche la penisola iberica. Nome: Paola. Cognome: Costa. Età: 36 anni. Città di origine: Roma. Studi: laurea in scienze politiche. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2001. Per andare dove? Cina. Perché? Studio e poi lavoro. Quale lavoro svolgi attualmente? Imprenditrice. Dove? A Barcellona. Tornerai? Per vacanza o per trasferte lavorative. La carica della spagnola Maral, l'universo sovremi per una storia, quella di Paola Costa, che emana una forte, fortissima carica. L'Italia è senza dubbio un paese meraviglioso, che offre però poche possibilità ai giovani che non si muovono all'interno di un sistema clientelare tipicamente italiano. Questo è specialmente vero a Roma. Io vivo all'estero da ormai 12 anni, sono sicura che se tornassi a vivere a Roma, tutto il mio bagaglio di esperienze professionali internazionali e le mie qualifiche accademiche non avrebbero praticamente valore in un sistema per nulla meritocratico, dove conta molto più chi conosce rispetto a quanto sai e a cosa puoi portare alla società. Paola, la chiusura della tua lettera, giovanitalenti@radio24.it, va dritta al cuore della questione: il valore del merito contrapposto al disvalore del clientelismo. In Italia avresti mai potuto mettere in piedi il tuo progetto imprenditoriale da zero, contando solo sulla tua idea e senza conoscere nessuno? Non so se ce l'avrei fatta, credo che sarebbe stato molto difficile. Comunque, essendo fuori dall'Italia da 11 anni, non saprei, ma lo vedo duro. La vedi difficile, è la tua più che una storia, un'avventura a cavallo tra Europa ed Estremo Oriente, avventura che parte a Roma con l'iscrizione alla facoltà di scienze politiche. Perché questa scelta? Avrei voluto fare la carriera diplomatica, ma poi per esperienze che ho avuto in Cina ho cambiato presto idea e ho deciso di fare un altro tipo di carriera, sempre legata comunque al mondo internazionale. A 25 anni ti laurei, voto finale 110, ma se dovessi tu giudicare l'università italiana, quale voto le daresti? Certo, non 110, molta teoria, poca pratica e soprattutto non c'è la connessione col mondo del lavoro e non ti danno possibilità di fare dei tirocini in aziende, cosa utilissima. Subito dopo la laurea la mia vita professionale è cominciata in altri lidi, molto lontani e diversi per cultura, lingua e tradizioni, ci annunci. Destinazione Cina, paese a te non sconosciuto, poiché avevi già trascorso un semestre a Pechino approfittando della presenza di tua madre, lettrice di italiano. Torni un altro semestre, questa volta a Shanghai, in realtà ancora prima di laurearti. Dunque, per fare cosa? In primis ero andata a Shanghai per la ricerca per la tesi, ho fatto una tesi sperimentale, sono stata lì 4 mesi, incontrai il mio primo lavoro lì. Il caso vuole che il tuo lavoro part-time a Shanghai, in un negozio di vini francesi per mantenerti, si trasformi poi in un motivo per restare in Cina. Ti offrono infatti di rimanere e in un triennio diventi responsabile del Dipartimento di Vini Italiani, curi i contatti con i fornitori, organizza eventi. A poco più di 20 anni, insomma, una crescita rapidissima. Cosa ti ha insegnato questa prima esperienza in Cina? Prima cosa, mi ha aperto la visuale moltissimo, diciamo, vivere in un ambiente internazionale è stato molto importante per la mia crescita professionale. E poi a livello pratico ho cominciato a capire come muoversi nel mondo del lavoro, che, come dicevo prima, è totalmente scollegato dal mondo universitario. Attenzione ora, nel 2003 esplode la SARS, si teme un'epidemia globale, l'epicentro proprio in Cina, migliaia i morti. Tu lasci il paese preoccupata dai rischi per la salute e fai tappa in Italia. L'idea è quella di specializzarti nel settore del commercio internazionale. Vuoi trovare insomma lavoro e avviare un master, ma l'obiettivo fallisce. Perché già 10 anni fa, dunque ben prima della crisi, le opportunità per i nostri migliori laureati scarseggiavano. Vogliamo dire quale fu l'unica, e ripeto l'unica, offerta di lavoro che hai ricevuto in Italia? Lavorare sul treno Roma-Milano, che allora si chiamava Pendolino, come cameriera nel ristorante. Mi è stato detto, visto che parli le lingue, parlavo 4 lingue, è il posto adatto a te. E insomma, per me è stata veramente una grande delusione. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Con un forte senso di frustrazione cominciai a guardarmi intorno per cercare alternative fuori dall'Italia. Così concludi il tuo breve tentativo di rientro. L'opportunità arriva dalla Spagna, paese che in quegli anni andava davvero forte. Quali opportunità ti si presentano a Barcellona? Sì, a Barcellona in pochissimo tempo riesco a trovare un lavoro in un tour operator italiano e una borsa di studio per un master in marketing nell'Università Pompeo Fabra. E dopo un anno sono riuscita a vincere una borsa di studio veramente molto buona dell'Istituto Commercio Estero Spagnolo, e questa borsa ha un valore circa di 90.000 euro e un periodo, una durata di 3 anni, grazie alla quale ho potuto studiare un MBA, un Master in Management Administration and Trade. E ho lavorato poi all'estero, sono ritornata in Cina. Esatto, infatti ci arriviamo, perché la vita a volte è davvero strana, Paola. Dalla Spagna compi il tuo secondo salto verso l'estremo oriente. Grazie a quella borsa di studio voli a Taipei per lavorare come analista di mercato, poi ti sposti a Hong Kong per la banca iberica BBVA. Fermiamoci ora per un attimo. Mentre il tuo paese, l'Italia, che ti ha fatto laureare, poteva offrirti al massimo un posto da cameriera sui treni, la Spagna, senza che tu avessi alcun santo in paradiso, di euro per la tua formazione ne ha investiti oltre 90.000 con un posto di alto livello. Non è questo assurdo? Sì, certo, detto così può sembrare assurdo, soprattutto da una prospettiva italiana, però effettivamente era una borsa di studio che si poteva vincere con una selezione molto dura per meriti ed era aperta a tutti gli europei, per cui in teoria non c'è bisogno di avere santi in paradiso per vincerla. Questa è una logica, questa è una logica giusta, attrarre talenti non solo del proprio paese ma anche dall'estero. E concluso il programma di formazione decidi di restare in Asia e, sorpresa, passi dal mondo della finanza a quello della moda. Perché innanzitutto, e dove approdi? Comincio a lavorare per un'azienda spagnola che mi danno l'incarico di aprire una filiale ad Hong Kong e una succursale produttiva a Shanghai. A questo punto dobbiamo fare un po' il riassunto, perché la tua storia è molto lunga, interessante, ma il tempo è poco. Da Hong Kong ti sposti a Shanghai, dove insegni inglese e italiano, poi torni a Hong Kong come project manager, poi ancora di nuovo lavori per un'azienda italiana. Grande mobilità, grande dinamicità di carriera. 3 anni fa però, dopo 6 anni consecutivi in Asia, decidi con tuo marito di tornare alla vecchia cara Europa e di mettervi radici. Trovi lavoro a Barcellona, il periodo però è nero, dopo soli 6 mesi perdi il lavoro. Paola, come ci si sente a 35 anni, in piena crisi, in un paese straniero, disoccupata? Panico? Sì, diciamo il primo impatto è stato un po' duro, poi ho pensato che forse per me era arrivata l'opportunità per cominciare la mia attività imprenditoriale, cosa alla quale stavo pensando da vario tempo, però poi alla fine non ce la spieghi in sintesi? Ce la spieghi in sintesi questa idea? Sì, l'idea era di aprire una accademia di cinese, però un po' diversa dalle normali accademie di cinese, perché le lezioni sono online, in videoconferenza, gli insegnanti sono in Cina e gli studenti sono in Europa, e diamo lezioni tanto individuali come di gruppo con insegnanti nella distanza. Dobbiamo anche dire che ad aiutarti è l'agenzia municipale Barcellona Activa, che è diretta da un altro italiano, Lorenzo Di Pietro, che è stato anche nostro ospite a Giovani Talenti. In neppure un anno la tua idea ha registrato una crescita esponenziale grazie anche a un servizio del canale europeo Euronews, arrivato dopo la vincita di un premio internazionale. Attualmente hai 120 studenti, oltre 20 collaboratori, stai organizzando una struttura di franchising per esportare il modello e hai aperto persino una succursale a Roma. Paola, per avere successo in Italia da outsider e senza raccomandazioni occorre arrivare dall'estero, non è paradossale? Sì, è un po' paradossale. Forse la burocrazia all'estero è più facile e ti permette di iniziare, che di solito è la parte più difficile. Poi una volta che la struttura è creata, rientrare in Italia non è così difficile, o quantomeno puoi provarci. Domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? E una proposta concreta da cui ripartire? Intanto un po' di positività. e anche direi io rimboccarsi le maniche, perché c'è anche da dire che molti italiani vogliono la vita facile senza lavorare troppo. Non è possibile avere uno stipendio o una pensione o dei privilegi senza che questi non corrispondano a un'effettiva produzione in termini di servizio e di beni, e questo è un concetto che in Italia manca un po'. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Paola Costa, 36 anni, direttore e fondatrice della Scuola di Lingua e Cultura Cinese Orientalmente a Barcellona. Paola vi giunge dopo uno straordinario percorso professionale a cavallo tra Estremo Oriente ed Europa. Approda in Cina mentre prepara la tesi di laurea, vi resta 3 anni dirigendo il Dipartimento di Vini Italiani per una trading company. Nel 2003 torna in Europa, approda in Spagna dove vince una borsa di studio dell'Istituto del Commercio Estero Iberico, grazie alla quale frequenta un master e riparte per l'Estremo Oriente tra Taipei, Hong Kong e Shanghai. In quegli anni passa dal mondo della finanza a quello della moda, cambia diverse aziende e poi rientra a Barcellona. Dopo 6 mesi perde il lavoro, la situazione di crisi la spinge a tentare l'avventura imprenditoriale fondando una propria scuola di lingua cinese. Esperimento di successo in neppure un anno. Lontana da un ambiente clientelare e relazionale come quello italiano, Paola ha dato libero sfogo al suo talento. A Roma le hanno offerto al massimo il lavoro di cameriera a bordo del pendolino. E ci raggiunge ora in linea Anna Maggi, insegnante in un liceo linguistico a Milano, autrice del libro Torno a casa, una storia di immigrazione controcorrente, edizioni La Memoria del Mondo. Buon pomeriggio. Ciao. Anna, come commenti la storia di Paola? Con la cultura e l'insegnamento, che ne dica qualche ex ministro, forse un po' fuori sintonia con la globalizzazione, ci si può mangiare e generare anche profitto? Certamente. Io penso che la cultura, oltre ad essere un nutrimento per l'animo umano, sia nutrimento anche per la crescita civile della società. I frutti dell'impegno, della dedizione, della fiducia nelle potenzialità della cultura, se non nell'immediato, ma sicuramente nel medio-lungo periodo, vengono premiati e gratificati. La storia di Paola ci conferma questo. E anche la tua storia, Anna, è molto bella, anche perché speculare in qualche modo a quella di Paola. Anche tu sei emigrata 13 anni fa a Francoforte per seguire tuo marito che era stato assunto alla BCE. Per circa 7 anni hai insegnato lingua e cultura italiana in Germania, nelle scuole di lingua pubbliche e all'Istituto Italiano di Cultura. Quanto hai visto valorizzato il tuo ruolo di docente in terra tedesca? Dal punto di vista della remunerazione, la situazione era più che adeguata, quindi riconoscimento c'è stato. Dal punto di vista delle condizioni che permettevano la piena espressione della mia funzione, il percorso è stato diversificato a seconda delle situazioni in cui lavoravo. E nel 2007, quando diventi mamma, decidi di tornare in Italia e di riportare i tuoi 2 figli a casa. Sì. Ti specializzi per un biennio per poter insegnare nelle scuole superiori filosofia e storia, poi inizi la trafila come supplente fino a quando un anno fa resti senza lavoro. Il mercato dell'insegnamento nella scuola pubblica infatti è saturo. Contano le graduatorie, non i meriti o le competenze o il curriculum. Cosa c'è che non va nella nostra scuola, Anna? Proprio quello che hai sottolineato tu, cioè il sistema di reclutamento. Il preside di una scuola non è in condizione di selezionare un insegnante sulla base delle sue effettive competenze didattiche, pedagogiche, sul piano della sua motivazione, della sua passione, delle sue effettive qualifiche, ma deve basarsi unicamente sul computo degli anni di servizio o su titoli che vengono spesso comprati, che corrispondono a corsi che consentono di acquisire punteggio, ma che non portano effettivamente a una competenza e a una capacità. Nasce così l'idea del tuo libro Torno a casa, libro molto ben scritto, e lo dico senza piaggeria. Perché hai accettato la sfida di tornare in un paese non facile? Perché hai fatto una scelta, spiace dirlo, ma controcorrente? Innanzitutto perché ho deciso di confrontarmi con questo dilemma: torno a casa o rimango all'estero. Ho scelto di scommettere sulla possibilità comunque di una piena realizzazione nel mio paese, che devo dire, dopo l'esperienza all'estero, non considero così interamente da disprezzare. Occorre tornare a credere nelle possibilità di rinascita del nostro paese. Paola, è una domanda per Anna? Volevo sapere se Anna pensa che l'educazione potrebbe avere un ruolo importante per la, diciamo così, la rinascita dell'Italia. Certamente, io penso che abbia un ruolo fondamentale, è proprio dall'educazione, dall'istruzione, dalla cultura che occorre ripartire. È assurdo che l'Italia si collochi all'ultimo posto fra i paesi industrializzati e fra i paesi dell'Europa per quanto riguarda gli investimenti in istruzione e in cultura. Anna, la bella notizia è che a settembre hai trovato lavoro in un liceo linguistico paritario a Milano dove insegni in tedesco, quindi alla fine ne è valsa la pena tornare? Sì, assolutamente. assolutamente. Tra l'altro questo posto che ho trovato mi ha consentito di esprimere e valorizzare pienamente anche ciò che avevo appreso vivendo e lavorando all'estero, e ci sono arrivata non per conoscenze, non per raccomandazioni, ma sulla base del mio curriculum. Bene, è da qui che dobbiamo ripartire. Grazie ad Anna Maggi. E domanda di rito per Paola Costa: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Con lavoro, studio e impegno si può trovare una soluzione, soprattutto considerare l'opportunità di andare all'estero, ma anche in Italia con le nuove tecnologie e con una forte volontà sì, si può creare qualche cosa. Terza puntata dell'iniziativa Giovani Talenti in Europa, che ci terrà compagnia fino al 25 maggio sostituendo la rubrica Jobs Abroad. Premieremo 6 ascoltatori tra i 18 e i 30 anni che invieranno da adesso fino a domani a mezzanotte una email a concorsoeuropa@radio24.it con una proposta concreta da sottoporre agli europarlamentari. In premio per le migliori 6 proposte un viaggio a Strasburgo all'inizio di luglio. Attenzione, la proposta, anche se inviata via email, dovrà essere contenuta in 140 caratteri al massimo. Il tema della settimana è: inviateci una proposta per un nuovo programma europeo di lavoro a favore dei giovani. Ripeto, un programma europeo di lavoro. La casella email è concorsoeuropa@radio24.it. Ricordate di indicare data di nascita, indirizzo e numero telefonico. L'iniziativa Giovani Talenti in Europa è svolta in collaborazione con l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo di Milano. Tutte le info, i contatti e il regolamento su www.radio24.it. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi parliamo di un gruppo web che nel cuore della Romagna ha cominciato a prendere seriamente in considerazione l'ipotesi dell'espatrio. Per lo più informatici ed esperti di ICT hanno tenuto un primo incontro a gennaio, aperto anche agli utenti online, per dibattere sull'opportunità di lasciare l'Italia per avere un futuro migliore. Francesco Fullone, tra i fondatori di Xpug Romagna, ci spiega com'è nata l'idea. Ad un certo punto alcuni di noi hanno annunciato l'interesse per espatriare e un paio l'hanno già fatto. Di conseguenza è nato all'interno del gruppo l'interesse su come funziona il mercato all'estero, soprattutto in un ambito tecnico-tecnologico che trattiamo noi, e come funziona il mercato del lavoro. È nata quindi il primo incontro serale, normalmente siamo 20-25 nella mia azienda, solo che in questo caso abbiamo avuto tantissime adesioni e che abbiamo dovuto estendere l'invito anche ad internet. Raccontiamo chi siete innanzitutto, quale formazione avete e dove lavorate? Siamo quasi tutte piccole e medie imprese, più piccole, e qualche libero professionista, tutti nell'ambito tecnologia, per lo più internet. Francesco, noi stiamo parlando quindi di un settore tendenzialmente molto portato all'innovazione. Esatto. Area nella quale l'Italia non eccelle di certo, eppure dovete in qualche modo andarvene, perché? L'innovazione in Italia eccelle anche su internet, il problema è che è difficile eccellere sul mercato italiano, per problemi burocratici, per vincoli tipicamente italiani. È molto complesso fare un'azienda, è molto complesso gestire un'azienda, è praticamente impossibile per una piccola e media impresa lavorare con l'estero, e quindi la prima scelta che bisogna fare se si vuole espandere il proprio business è aprire all'estero. Quali sono le destinazioni a cui state guardando in ottica di espatrio? Berlino, perché ci sono molti fondi per le start-up, Londra perché ambito tecnologico è sempre stato punto di riferimento, si sta guardando anche molto in Svizzera, dove il salario medio è molto alto e soprattutto le aziende puntano molto la formazione dei propri dipendenti, e alcuni addirittura sono andati a lavorare in Malesia piuttosto che a Taiwan, Singapore o a Dubai. A inizio gennaio avete fatto un primo incontro, qual è la cosa che ti ha più colpito? Non ci siamo pianti addosso, ma da subito abbiamo puntato su soluzioni. C'è un problema anche di qualità della vita in Italia? Inizia a esserci. Per maggiori informazioni potete connettervi su Facebook al gruppo xpug.emigriamo. Un motivo per restare o tornare. Stretta del governo sulle incariche ai vertici della pubblica amministrazione per evitare parentopoli e prevenire fenomeni di corruzione e cattiva amministrazione. Questa è una delle misure varate a fine marzo dal Consiglio dei Ministri. Dalla CDM è uscito un decreto legislativo in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni. Un'altra novità riguarda la formazione dei dirigenti. È stato definito un sistema coordinato per selezionare i giovani più meritevoli per l'accesso alla carriera dirigenziale nella pubblica amministrazione.